GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Un gol di Ronaldinho regala al Milan il derby di Milano e alla Lazio il primato solitario in classifica dopo la quinta di A. A San Siro vincono i rossoneri 1-0 grazie a un colpo di testa del brasiliano nel primo tempo. Ancelotti a Sky Sport. Io non l'ho voluto Ronaldinho, l'abbiamo voluto tutti, perché è un grande campione, sappiamo quello che può dare, cominciamo a conoscerlo bene e quindi comincia a capire che è un giocatore che non è solo un giocatore fine a se stesso, è uno che lavora, che gioca anche per la squadra, che gli piace mettere in porta i compagni, quindi da questo punto di vista è anche una sorpresa. Il nerazzurro Mourinho polemico con l'arbitro Morganti. Per me due squadre in cui nessuno è stato meglio di un'altra, in cui nessuno ha meritato più di un'altra, ma dove il pragmatismo del calcio è così, loro 1-0, i complimenti per loro, e dell'arbitro non parlo perché voglio essere in panchina nella prossima partita. Vola quindi la Lazio che sbanca Torino per 3-1 grazie a Pandev e a una doppietta del capocannoniere Zarate. Delio Rossi. Io sono contento di allenare dei giocatori che pensano intimamente di puntare al massimo, anche perché cresce molto l'autostima, ma ogni giocatore come gli allenatori deve puntare sempre al massimo. Poi secondo me gli obiettivi vanno centrati, non vanno dichiarati. Noi stiamo riaprendo un ciclo con dei giocatori giovani, motivati e anche un po' incoscienti. Il Napoli vince a Bologna 1-0 e sale al secondo posto. Il tecnico Reja. Noi stiamo vivendo un momento particolare di forma, abbiamo grandi convinzioni, i ragazzi scalano uno sull'altro, nel senso che si aiutano e poi con le nostre ripartenze possiamo fare male. E intanto la squadra è sicuramente maturata. Terza piazza per l'Udinese, 2-1 al Siena e il Catania, 1-0 al Chievo. E continua la risalita della Roma che batte 2-0 l'Atalanta. Sentiamo Spalletti. Dobbiamo ritessere momento dopo momento e creare poi quelle basi per riuscire ad essere più tranquilli dentro le partite e riuscire a esprimere qualcosa di più anche di quello che abbiamo fatto oggi, nonostante la squadra sia stata quasi perfetta. Vittoria anche per Palermo, 1-0 sulla Regina e Lecce, 2-0 al Cagliari, ancora fermo a quota 0 in classifica. Per il ciclismo gli azzurri dominano il mondiale di Varese, vittoria di Ballan, argento a Cunego davanti al danese Bretschel e quarto è Rebellin, la gioia del neocampione del mondo Alessandro Ballan. Una cosa incredibile, la gente gli ultimi 2 chilometri mi ha spinto all'arrivo a urla, ero molto stanco perché ho cominciato ad attaccare già da presto, a 60 km all'arrivo, non credevo di farcela perché gli ultimi 2 giri avevo un inizio di crampi, però ho visto che anche gli altri non stavano molto bene, quindi gli ultimi 5 chilometri ci ho creduto. Da 3 anni a sta parte la nazionale è una squadra come se corressimo assieme tutto l'anno, ecco. In MotoGP Valentino Rossi vince in Giappone e conquista così con 3 gare d'anticipo l'8º titolo mondiale in carriera. È stato un successo di tutta la squadra, quindi devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato, la Yamaha che ha fatto una gran moto, le Bridgestone, Jeremy, tutto il mio team. Siamo riusciti a costruire la condizione ottimale, poi io ho fatto il resto perché ho sempre guidato bene, è stata una gran annata, quindi penso che me lo merito proprio questo mondiale. In Formula 1 invece KO Ferrari nella notturna di Singapore, vince Alonso su Renault, Hamilton terzo porta a 7 punti il vantaggio in classifica mondiale su Massa, attardato da un incidente ai box durante un rifornimento. Il Raikkonen va a sbattere a pochi giri dal termine. Il direttore della gestione sportiva della Ferrari, Stefano Domenicali. La sequenza di pit stop sotto regime di safety car, il controllo dell'uscita viene fatto manualmente e purtroppo la squadra ha commesso un errore, ha rilasciato la vettura di Felipe prima che le operazioni di rifornimento fossero terminate. Per l'atletica leggera Haile Gebrselassie migliora se stesso. Nella maratona di Berlino il grande campione etiope ha battuto la sua precedente miglior prestazione mondiale sulla distanza stabilita sempre a Berlino l'anno scorso, segnando il nuovo tempo record di 2 ore 3 minuti e 58 secondi. E chiudiamo con la pallavolo. Partono bene Piacenza e Macerata nella prima giornata del campionato di Serie A1 maschile. Sconfitta a sorpresa per Treviso, battuta in casa al tie-break da Verona. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.